Letture di Radio 24. A partire dal prossimo 7 marzo, i pensionati che percepiscono più di 1000 euro al mese saranno obbligati ad aprire un conto in banca. Ma quanto verrà a costare tutto questo? A quei 450.000 ex lavoratori che ancora preferiscono ritirare i contanti agli uffici postali. In un editoriale pubblicato sulla Stampa, Bruno Gambarotta si fa portavoce del malcontento di quelli che lui definisce carne da sportello. Tanti anni fa, nei piccoli paesi, chi non andava a messa la domenica e non praticava i sacramenti era messo al bando. Per la nostra società è intollerabile l'idea che qualcuno possa sopravvivere senza mettere piede in una banca. Che sia questa la nuova religione? Ad ogni angolo di strada chiudono negozi e aprono filiali di banche. Noi pensionati sopra i 1000 euro siamo la carne da sportello per riempirle e giustificare l'investimento. Che male facciamo noi fedeli al rito della fila all'ufficio postale e al fruscio delle banconote contate una per una e ricontate per sicurezza? Nella fila ritrovavi le stesse facce, con un minimo di ricambio. Qualcuno aveva preso il pullman per l'ultima gita, sostituito dalle new entry. Sempre di meno, per la verità. Tornavi a casa, impugnando strette in tasca le banconote. Le dividevi in tanti cassetti, un tanto per l'affitto, un tanto per la spesa al mercato, un tanto per le bollette e così via, fino agli imprevisti. Senza contare gli spiccioli che si perdevano nelle tasche e servivano per il gratta e vinci. «Lo facciamo per il vostro bene», si sono affannati a spiegarci. «Così non correte più il rischio di essere rapinati nel tragitto dall'ufficio postale a casa. Ma li leggete i giornali?» L'ultima rapina al pensionato che usciva dalla posta è stata 20 anni fa. Saranno delinquenti, ma non sono scemi. Adesso fanno saltare lo sportello del bancomat. Perciò casomai è lì che corriamo qualche rischio. Oppure mettono una microcamera per filmarti mentre batti il codice. Le sirene delle banche insistono. Cosa sarà mai aprire un conto? Avrai il tuo libretto di assegni, la tessera del bancomat. A Natale ti diamo il calendario. Non è che vischio per attirarci nella trappola, un passo dopo l'altro. I banchieri sono delle sirene, come per i cellulari. Hai vinto. Puoi mandare gratis 1000 SMS nelle prossime 24 ore. Così per farcela in tempo devo imbottirmi di caffè. La banca ti premia. Tanti punti per ogni operazione. Con soli 1000 punti vinci un weekend per due persone in una beauty farm. Bene, quanti punti ho accumulato finora? 54. Ma a fine anno scadono e devi ricominciare da capo. Ma se noleggi una limousine, ti regaliamo 500 punti. Il passo successivo sarà quello di convincerti a passare allo sportello online. Ti daranno un codice di adesione di 8 numeri. Dovrai crearti un PIN. Sarà almeno il decimo da mandare a memoria. Ma non basta. Avrai una chiavetta con 8 numeri che cambiano ogni 60 secondi e sempre mentre li stai battendo. Così dovrai ricominciare da capo e al terzo tentativo fallito entrerai nella lista dei 30 delinquenti più pericolosi. Dimenticavo, il direttore della filiale ci scriverà una lettera affettuosa e commovente, dicendo di essere a nostra completa disposizione per consigliarci al meglio per i nostri investimenti. Buono a sapersi, ci sono dei mesi in cui riusciamo a mettere via anche 18 euro. Potremmo partire da lì, purché il piano di investimenti sia spalmato su diversi prodotti in modo da proteggerci contro il rischio di default. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Bruno Gambarotta, Pensionati carne da sportello, schiavizzati dal conto corrente, dalla Stampa del 3 gennaio.